Uomini, uomini, venite a vedere, nuovo popolo risorgerà dalle ceneri corrotte di politica e società. Genti, genti, venite a sentire qual è il suono che tira la speranza di contare ancora un poco, ancora. E sento voci tipo non lo voglio, non ancora. La protesta salirà, non lo voglio, non ancora. Questo modo giusto, non lo voglio, non ancora. Sempre insieme, sempre qua. Questo è solo il punto di partenza, misurando la distanza che divide l'indifferenza e l'arroganza. Puoi capire la giusta misura della resistenza mai violenta, sempre attenta, stai. Ci hanno fatto riduto, pestati e torturati ai bordi delle strade. Siamo ancora qui a crederci per esserci e poi non mollare. Sempre voci tipo non lo voglio, non ancora. La protesta salirà, non lo voglio, non ancora. Questo è il modo giusto, non lo voglio, non ancora. Sempre insieme, sempre qua. Questo è solo il punto di partenza, misurando la distanza che divide l'indifferenza e l'arroganza. Puoi capire la giusta misura della resistenza mai violenta, sempre attenta stai. Nuovo popolo risorgerà dalle ceneri corrotte di politica e società. Genti, genti, venite a sentire qual è il suono che ti dà la speranza. Sempre voci tipo non lo voglio, non ancora. La protesta salirà, non lo voglio, non ancora. Questo è il modo giusto, sempre insieme, sempre qua. Questo è solo il punto di partenza, misurando la distanza che divide l'indifferenza e l'arroganza. Puoi capire la giusta misura della resistenza mai violenta, sempre attenta stai. Non ancora!